mai, ma sai che arriverà da te. E sul suo carro salirai, lasciando i giochi dietro a te. Luna, tu non vuoi che ti prenda lui, forse ride mai, ma è davanti a te e aspetta che tu venga via. E pensi solamente a te. Sono mille secoli oramai che cerca di arrivare a te. Oggi senti dei sospiri che bruciano anche te. Lui non sai cos'è. Tu confusa resterai, ti aggrapperai ai sogni tuoi, ma non potrai dire.